Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sono appena passato da uno scompartimento in cui non funzionava l'aria condizionata a uno finalmente pieno di refrigeri. Ci sono molte persone che gradiscono gli scompartimenti senza aria condizionata perché a loro piace il caldo, piace l'aria naturale. A me piace stare sotto zero e soprattutto quando viaggio in treno. E soprattutto quando vedo una donna di fronte a me affocata ancora dalla carezza del sole. Ma me la ricordo, già l'avevo incontrata un'altra volta in treno. Era la viaggiatrice solitaria nei sentieri misteriosi degli amori non corrisposti procuratisi attraverso internet. È la cercatrice, la pescatrice, quella che getta la rete e cerca uomini, ma non li cerca per una sua concupiscenza, per una sua voracità. Cerca l'uomo della vita, l'ha cercato per tutta la vita e continua a cercarlo. Sempre tramite internet. E guarda, uno addirittura l'ho conosciuto qua in spiaggia, ma quello è proprio da raccontare. Perché quello è vecchio stile però, analogico. È quello. E come è accaduto? Questo è un ragazzino, ovvio, 25 anni. Beh, mica male. No, vabbè, sì, ma non un bel bocconcino. Non è il mio target, no, assolutamente. Perché è sotto target molto. Sì, 25 anni, già lui, mia figlia ce n'ha 31, cioè mi sento mamma. Vabbè, oh, la provvidenza. Sì, va bene, oggi, ma non è per me. Ma oggi va molto di moda il toy boy. Beh, questo ha abbordato lui. Sì, questo ragazzino è venuto e mi ha contattata perché era attratto dalla mia bicicletta. Vabbè, è una bella bicicletta. Bella bicicletta. Perché c'aveva la tua bicicletta? È elettrica, c'ha una pedalata assistita, quindi la cosa era particolarmente attratta. Ma con la canna o senza canna? Ma dai, è senza, è una bicicletta per donna, quindi. E tu andavi sulla sabbia con la bicicletta elettrica? No, vado sugli scogli perché vado fino sul pontile, quindi mi è una bicicletta da scoglio, mai vista? Mi vado a cercare uno scoglio da sola dove non c'è nessuno che mi rompe le scatole. E ti carichi la bicicletta sulle spalle? No, arriva fino a lì, proprio un pontile. Ah, quindi, vabbè, sai, singolare di una signora con la bicicletta elettrica che arriva fino agli scogli in bicicletta. Vabbè, ma io sono particolare. Beh, chiaro, attira attenzione, no? Attiro. Quindi tu hai pedalato fino allo scoglio, ma sì. Guadi l'acqua a un certo punto, no? No, nessun guado, proprio arrivo a destinazione, la parcheggio. Metti il cavallettino, di che colore è la bici? Di che colore? È color grigio metallizzato. E quindi si confonde con gli scogli, sì, mi metti. Sì, quindi la fermo, la blocco, me la chiudo anche con la chiave perché hai visto mai che sono magari mi addormento. E poi questo tipo è venuto qua e ha cominciato. E ma tu che facevi dopo chiusa la bici? Sei stesa su un asciugamano? Guarda, io ho preso il mio asciugamano, mi sono tolta la magliettina, mi sono spalmata la crema, mi sono messa. Beh, stavi lì seminuda a prendere il sole. Stavo come stanno tutte quante le donne sulla faccia della terra a prendere il sole con il costume. È però un particolare importante, sennò magari se c'avevi, che ne so, la tuta da ciclista non ti notava. Forse mi avrebbe notato di più perché con la tuta da ciclista sullo scoglio in mezzo al mare, vabbè, sarebbe stata una cosa. Vabbè, tu riprendi il sole, occhi chiusi. Quindi mi prendo il sole, questo si avvicina, comincia a chiedermi della bicicletta, poi mi comincia a. Cioè, era interessato alla bici, non a te? Inizialmente sì, ma penso che poi alla fine. Ovvio, ma che ti chiedeva? Quanto costa? Come la manutengo? Quante volte ho cambiato la batteria? Ma sicuro parlava della bicicletta? Inizialmente sì, poi ho cominciato a parlare dei romanzi che stai leggendo, tipo Tolstoi, tipo Dostoevsky. Vabbè, un tipo tosto, no? È un tipo anche molto, sì, acculturato. Poi mi ha chiesto. Citava Dostoevsky, Tolstoi, mentre tu stavi lì. Sì, sì, sì. Dalla bicicletta. Cioè, Duval, Febbre, guarda. Vabbè, E poi? E poi mi ha cominciato a chiedere di me, che cosa facevo, se vivevo sola, com'era la mia vita, che cosa avevo fatto negli ultimi tempi. E poi mi ha chiesto il numero di telefono. Vabbè. magari, che ne so, voleva... Dico, che ci devi fare con un numero di telefono? Dico, tu sei... Diciamo, secondo te quanti anni ho? Dico, c'hai, grosso modo, c'hai 25 anni. Ah, sì, bravissima, c'hai preso. Dico, beh, mia figlia è anche più grande di te, quindi... Ha visto in te un'Anna Karenina? Non lo so, boh. Non lo so se hai visto un'Anna Karenina, spero di no. Beh, allora? Sotto il treno andavo sott'acqua. Mm. Beh, allora cosa è successo? E quindi niente, dai, ma io non posso mettermi con una... Mi dà il telefono o no? Non mi dà il telefono, no, perché dice, ma dai, potrebbe essere un'esperienza carina. Ah, quindi l'esperienza ti ha fatto capire che il telefono non è che gli serviva per... Ma non è che gli serviva per mandare i messaggini su WhatsApp, ma per magari, perché poi magari io gli potevo dare l'indirizzo di casa mia e poi venire a fare l'esperienza che lui avrebbe voluto. Ah, perché tu hai detto vivo solo a casa, o giusto appunto? Vivo solo a casa, beh, allora vengo. Un letto gonfiabile a forma di cuore? No. Letto e acqua. Quindi non è proprio cosa, quindi niente. Ma lui ha detto proprio, vengo a casa tua a fare l'esperienza. Vengo, dai, facciamo delle cose insieme. E poi ha detto, io sono bravo. Però scusa, ma ti ha chiesto denaro? No? Assolutamente, no, vabbè, fino a quel punto non è arrivato. Allora, perché uno si propone così, sono bravo, sembrava, magari non lo so. Ma non lo so, magari se gli avessi dato corda, cioè lo step successivo sarebbe stato quello di chiedermi soldi. Perché no, non lo so, non ce l'ho non fatto arrivare. Non lo so, ma non credo, guarda, non... Sai, oggi va molto di moda questa parola bruttissima che è MILF. Sì, io non mi identifico come una MILF, perché le MILF, da che so io, sono delle persone che comunque si palesano, si mettono in mostra, ma... Beh, un pochino se la pavoneggiano, se no non sarebbe... Sì, ma tutto, cioè, mi devi credere, cioè, andando in spiaggia con la bicicletta, pure un po' sudata, quindi non è... Vabbè, quello che vuol dire... Sono feromoni, attizza il sudore. Ma tutto mi sento meno che MILF. Se loro mi ci vedono, poi... Vabbè, la MILF mica tante volte è inconsapevole. Magari c'è quell'atteggiamento disponibile di una donna che lancia le reti, e lui è un piccolo pesciolino solitario. Dici, che posso essere... Entra nelle larghe maglie della tua rete, però tu l'hai fatto uscire subito. Ma vabbè, mi conterrò ancora di più per... Quindi è andato via con la faccia delusa? Sì, sì, perché poi mi sono messa a leggere, dico, senti, lasciami. E come ha detto, vabbè, ciao, pazzesco, se ci ripensi. Ma tu domani ritorni? Sì, sì, infatti proprio queste parole ha detto. Ma sei proprio sicura? Ma tu domani ritorni? Dico, come no, domattina sono qua alla stessa ora. Invece poi non ci sono più andato. Ecco, tu adesso mi devi spiegare una cosa, però. Scusami, ma hai raccontato storie di cadaveri umani, di sfigati, di gente che... E mica ho finito, Disinfettava le lenzuole e ci metteva la cerata prima di metterci te a letto. Trovi un ragazzetto fresco, carino, pulito, romantico, innamorato, perché gli hai detto di no? A parte non era innamorato, non credo proprio... Vabbè, infogliato come un mandrillo, ma perché... Ma quelli sono problemi suoi, ma... Vabbè, perché che... gli hai detto di no, scusa. Perché non mi via? Perché non è quella la relazione che voglio. Ma relazione, non è una relazione, lui mica ti ha offerto una relazione. Va bene, sono espressa male, non è quella la storia che voglio del ragazzo. Un objet de plaisir, così, una cosa, un attimo, no. Un attimo fuggevole, scusa. Non è neanche l'attimo fuggevole. Ma scusa, maggiorenne, 25 anni, un uomo, che c'ha? Sì, ma non era... Dai, non... no. Ma era carino? Sì, era carino, come può essere carino un ragazzo. Ma nemmeno per un attimo fuggente ti è balenata l'idea, chissà come ti sarebbe? Giuro, ma neanche per un attimissimissimo fuggentissimo, niente, no. Mangiarsi questo... Questo bocconcino? Bocconcino, no. Ma guarda, sono stata lusingata, non nascondo che lo sono stata. Quanto c'è di differenza? Una trentina d'anni di differenza? Sì. Vabbè, ma un uomo che va con una con 30 anni di meno è normale. Potrei farti un elenco di uomini con donne che hanno 30 anni meno. Ma questa è... Sessantenni con trentenni. La nostra mentalità, ma io non mi ci voglio. Cioè, perché se io mi innamorassi di una trentenne, che male ci sarebbe? Ho tantissime corteggiatrici trentenni che mi chiamano, ma ti prego. Dubbio, ben per te, però ti darò tutta me stessa. E io dico, no, non posso. Ci credo. Sì, magari... Certo, ci credo anch'io, lasciamoci credere. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibiwaze. Auka na muyo. Kairi hana. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Però non sarebbe manco tanto anormale. Tanti miei colleghi di sessantenni hanno donne trentenni. La trentenne sola, Gli è mancato il padre, prende un... Ecco, ma dai, vabbè, ma la figura materna, tutto voglio essere meno che figura materna, ce l'ho già una figlia, basta così. E ma magari era bravo davvero, scusa, c'era questo... Ma io non lo metto in dubbio, ma se la tenesse la sua bravura la dimostrasse ad altre persone che magari sono più vogliose di quanto lo possa... Beh, tu sei altezzosa però, è classista, non è colpa sua. Non è vero. Beh, sono classista. Ma metti che lui avesse sviluppato una passione amorosa, gli piacevi proprio te, non può essere. Vabbè, non è che una deve, comunque si deve concedere a tutte le persone che poi si innamorano. Sì, mo ha parlato Santa Maria Goretti, ma che ti importa? Non sono Santa Maria Goretti. Ma che passa subito, cioè non è che si consuma. No, assolutamente no. E allora scusa, potevi provare. E poi di pari passo io avevo un'altra situazione che mi stava colpiato sul collo, questo tipo che invece coetaneo, perché c'aveva qualche anno più di me, che non ho mai visto perché c'è stata soltanto una comunicazione telefonica. E come l'avevi raccattato questo? Questo sempre internet. Sul sito. Vabbè. Poi vedi, scusami, adesso poi me la racconti bene. Ti faccio solo notare l'incongruenza. Tu hai privilegiato un bolso sessantenne che ti si presenta anonimo, senza faccia, tramite un sito internet, e butti via quello che è la fortuna che ogni essere umano vorrebbe, una persona giovane che ti gratifica con il dono della sua giovinezza. La gratificazione di una persona giovane è fine a sé stante. Cioè, resta lì, c'è una situazione X che può durare mezz'ora, come può durare una notte. Può durare anche una notte, due giorni, una settimana, gli piacevi, tornava. Ma non è quello, cioè io non è quello che sto cercando, non è la relazione, la situazione sessuale. Ma sei mai stata con uno con 30 anni meno? No. Deve provare una volta nella vita, no, non lo so. No, vabbè, no, non ti piaceva, ho capito. No, ma può darsi pure che sia perché non mi piaceva, perché magari se mi fosse piaciuto di più. Ragazzetto fresco. Allora, invece quest'altro qua... Invece quest'altro qua è una persona che abita in Abruzzo. Pensa a te. Vabbè. In Abruzzo, e quindi lui è un... gestisce una grande struttura alberghiera. E però faceva anche dei viaggi a Roma perché aveva anche degli altri affari in piedi. E quindi mi ha contattata e io gli ho chiesto ovviamente la foto, perché senza foto non mi... Vabbè, foto, potrà mandarti anche la foto mia, che ne so. Sì, questo è vero. Però la foto che c'era sul sito era la foto veramente di un bell'uomo che ovviamente... Chi è non che aveva... mette la foto di uno brutto, scusa? Vabbè, ci stanno le foto brutti, ma ci stanno certi cani. Vabbè, dai, continua. Quindi questo bell'uomo, che però non aveva gli anni che comunque lui diceva di avere, perché dimostrava decisamente meno. Quindi quando gli ho chiesto quanti anni fa avesse fatto quella foto, lui mi ha risposto 10 anni fa. Ok. Io quindi, se per favore mi mandi una foto recente, visto che quelle che tu stai vedendo di me sono di 2 mesi fa. Quindi per par condicio mi sembra giusto. Tu le hai fatte da fotografo o te le hai fatte col telefonino? Io col telefonino. Beh, oddio, fatti una foto e mandamela subito. Con l'orologio in mano, ma figurati, no? Tu hai detto che comunque no, viene male in foto, non è fotogenico. Tutt'altro, quando mi vedi vedrai che sono comunque un bell'uomo. Va bene, ok. Va bene, ok. Quindi questo ha cominciato con queste telefonate, ci siamo sentiti ovviamente al telefono, e mi raccontava e mi diceva insomma che quando comunque ci saremmo visti, e lui premeva affinché ci vedessimo il prima possibile, io sarei comunque dovuta andare a Roma. Io non abito a Roma, abito in un'altra città. Beh, meglio a Roma che in Abruzzo, scusa, più vicino per sì te. Ma perché non devi venire tu a trovare me nella mia città? Tu in realtà dall'Abruzzo a Roma non viene con la macchina, viene con il pullman. Ah, vabbè. Ma se c'ha la valigia con le caciotte da portare. Perché lui ha detto che con la macchina sua ci vogliono un sacco di soldi, perché gli ci vogliono circa 200 euro per venire dalla Bruzzo. Edio, che macchina ha? Ah, una Lamborghini. Ah, vabbè. E quindi vabbè, si avvale del pullman, di questa corriera. Ma una via di mezzo non c'è fra no, il pullman e la Lamborghini? No, ecco. C'è la Panda. No, c'è la corriera che costa 25 euro e gli danno anche la boccetta d'acqua da mezzo litro. Omaggio. E quindi è entusiasta di questa cosa. No, ok. Quindi io sarei dovuta andare a Roma ad incontrarlo. Questa cosa non mi andava, perché lui comunque questa foto era un po' ostile a mandarmela. Scusa, no, permetti un attimo. Lui ti si presentava con la bottiglietta d'acqua già mezza ciucciata e dice andiamo a folleggiare. Non lo so come avresti fatto. Vabbè. Io non lo so. Non cioè, per lui era gratificazione avere una bottiglietta da 50 centesimi omaggio. Infatti è questa la cosa, è perché io ci ho puntato il dito, perché lui me l'ha fatta notare la cosa della bottiglietta d'acqua. Come se avesse raggiunto non so che scopo nella quindi sua un morto di fame, assurdo. Appunto, vedi che ci sei arrivato prima di me, è una persona intelligente. Bisogna aver studiato. Sì, però comunque si tocca con mano, no, questa sensazione. Quindi voleva che io andassi, allora non andava di andare, che poi fa caldo, mi sarei dovuta mettere sul treno. E la Lamborghini dove stava nel frattempo? In Abruzzo. Ma che ci tiene le galline dentro? Non lo so, cioè, forse la usa per i girettini intorno al monumento cittadino, non ne ho idea. Ha spinto. quindi io gli ho detto, vabbè, senti, o mi mandi la foto o se no io non vengo. A che mi ha risposto, vabbè, allora incontra altre persone. Finita. Scusa, se tu non mi vuoi far vedere la tua foto vuol dire che c'hai qualcosa da nascondere, quindi... Beh, avrò un lieve difetto fisico, probabilmente. Ma allora dimmelo, palesalo, cioè, non mi posso... E quindi a questa cosa lui mi ha risposto, ti dico comunque che tanto tu in foto non sei neanche un granché. Vabbè, è un poraccio, capito? Vabbè, dai, io lì mi sono incavolata e gli ho scritto una letteraccia. Ci hai perso anche tempo. Sì, vabbè, ma non posso, io devo avere l'ultima parola, non posso stare dietro a dei cialtroni così. E quindi gli ho detto che ero morto di fame. E lui che ha detto? Che sì. Si avvaleva di una corriera e che si contentava. Beh, non demonizzare, perché io viaggio in treno da mesi. È bello viaggiare con i mezzi, che vuol dire? Va bene, ma tu non ti puoi... Allora, tu paventi il tuo reddito. Paventi, ah, ti ha detto quanto guadagna subito? Sì. Quanto guadagnava? Sì, ma intorno ai 70.000 euro ogni anno. Beh, 70.000 euro anno la macchinetta ci scappava, però. Infatti. Avendo un'attività, avendo un albergo, poteva benissimo prenderla come scaricarla sull'albergo. Ma senti, ma ce ne sono di modi. La prendeva con il leasing, cioè non esiste un albergo che non c'ha una macchina. Cosa, non è vero, lui si è sentito ferito perché aveva fatto lo sguattero in qualche cucina di qualche albergo. Cioè, gli ho dato del morto di fame. E lui mi ha risposto che io ero, oltre ad essere brutta, ero anche vecchia, ero anche vigliacca, e poi ha sottolineato pussa via, mi ha detto anche. Vabbè, te le vai a cercare, guarda, veramente, è masochismo puro. Beh, allora, ti spiego, se lui avesse mandato la foto era un bell'uomo, saresti uscita, nonostante la palese stigma di morto di fame, pallonaro che avevi già capito. Ma guarda, sì. Forse no, perché già non mi piaceva come parlava, questo atteggiarsi, questi soldi, questi, ma non, tu non devi con una donna tirare fuori tutte queste ma fantasie. Tu pensa che poveracce disperate che va a raccattare lui pur di farsi una svelta in piedi fuori della stazione dei pullman della Tiburtina quando arriva con il pullman, prima di ripigliare il pullman indietro per tornare al paesello dove fa il cuoco. Meno male che c'è stata una bottiglia da mezzo litro, però. Sì, vabbè, purello. La userà per farsi gli sciacqui inguinali, per abbassare il turgore dato dall'attenzione mal riposta, probabilmente, non lo so, poverino. Sì, sicuramente, povero figlio, quindi questa storia è finita così. Quindi mi dai ragione, era meglio il ragazzino. Non capirò mai voi donne, guarda, di fronte un ragazzino che è pulito, palese, alla luce del giorno, ti mostra il suo amore, la sua passione, il suo desiderio, te lo dice subito, non perde tempo, non è infame, non inventa stratagemmi, pulito, dice guarda, mi piaci, vengo a casa tua e ci divertiamo. Mi sembra la cosa più bella del mondo, un omaggio, t'ha visto, quindi non è che aveva un'illusione, sapeva come eri, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi e ti ha chiesto. Un costume, guarda, e gli ha detto no, quindi... Non era manco dire dovevi mascherarti, metterti le guepierre, il trucco. Tale quale come mamma t'ha fatto, lui gli piacevi. E gli ha detto di no. È un imbecille, fannullone, morto di fame, assatanato, inconcludente, tipicamente inconcludente, perché se veramente t'avesse voluto, trovava la maniera, ma eri disponibile. Ecco. Quindi era uno che gli andava di chiacchierare, quindi era anche frustrato in questo. Per lui era anche troppo poi spendere i soldi dell'autobus dell'ATAC dalla stazione fino a casa tua, quindi non avresti concluso nulla. E a quello però gli hai dato spago. Siete strane. Ma perché con quello magari c'era una possibilità di un proseguio, no? Ma magari... che proseguo? Ma con un cretino così che ti viene con l'autobus? Ma io potevo saperlo però che era un cretino fino a quando non si è dimostrato in tutta la sua... Allora tu cercavi la sistemazione, ti eri fermata alla prima storia del gestore d'albergo con la Lamborghini e tutto, e cioè, stavolta mi sistemo, cerchi il marito. Sistemo, dai. Voi donne cercate sempre l'uomo della vita, l'uomo che vi accolli per tutta la vita. Dai 9 ai 90 anni volete sempre l'uomo che va a... Ma perché biasimi questa cosa? Perché la biasimi questa cosa? Ma perché ormai è antistorico, contro i tempi. Non esistono più le persone per la vita. Esistono le passioni, possono durare finché le alimenti. Una persona per la vita, continuerà a cercare te ancora l'uomo per la vita. No, guarda, mi sono data un tempo, ti giuro. E dopo? Qualche mese e poi basta così. E poi la dai a chiunque. Scusami? Poi ti dai a chiunque. No, poi mi chiudo proprio dentro casa e faccio veramente Santa Maria Goretti. Sì, che è autolesionismo puro, scusa. Ma vabbè. Quindi tu, se non coroni il tuo sogno di fanciulla, hai detto che rinuncio. Guarda, io spero di incontrarti la prossima volta, nel prossimo treno, felice, contenta e finalmente con il racconto del tuo aver osato seguire il ragazzino all'interno del tuo letto gonfiabile o ad acqua o con materasso sonoro, e mi racconterai le delizie che hai provato nell'aver oltrepassato questa soglia della tua... Guarda, con la confidenza che si è instaurata tra me e te, il primo a saperlo sarai tu. Il primo a saperlo, grazie, benissimo. Poi dimmelo in treno, perché così ne faccio oggetto della prossima trasmissione. Va bene. Grazie, caro. Buon viaggio. Anche a te, ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. La passionale pescatrice a strascico mi ha aperto degli squarci che non sospettavo sull'intimo desiderio femminile. Rifiuta quello che sarebbe uno stereotipo dei più appetibili, il toy boy, quello che tutte le attrici, le conduttrici televisive, le videogiornaliste di grido ostentano come se fosse un oggetto di lusso, qualcosa di cui vantarsi. Lei invece no, cerca l'amore. Ma le donne veramente hanno un loro circolo segreto? Esiste una congrega di pitonesse che si scambiano quelli che sono i misteri e le usini degli anni web 2.0? Sì, esiste, l'ho conosciuto. Sarà la depressione, sarà la crisi, sarà che noi uomini siamo tutti diventati sessualmente rispettosi. È un dato di fatto che in Italia le femmine stanno apprezzando sempre più l'armadietto casalingo del pronto soccorso erotico. La categoria merceologica dei fallingom e affini non vede recessione, anzi. Un piccolo esercito di agguerrite venditrici sta rivoluzionando il concetto un po' démodé della vendita salottiera tra amici di fondotinta, cosmetici, balsami e cremini antirughe. Il sesso langue? Il maschio si tormenta? Il talamo è un obitorio e le sagge donne prendono la situazione in mano per illustrare alle migliori amiche il marchingegno elettronico che anima la Lady Rabbit Purse, di ultima generazione. Quella moto vibrante oscillatorio con lucenti glitter, in morbido jelly, e che viene sostenuto da una solida base ergonomica. Naturalmente non c'è solo quello, anche se al top degli articoli venduti, ma si capisce che è un classico da decenni. Fu il protagonista di una pericolosa sindrome di dipendenza per Charlotte di Sex and the City. La valigetta rossa delle venditrici di succedanei amorosi contiene di tutto e di più. È quello che serve per stuzzicare il bradipo dormiente di compagni e mariti, perlomeno per provare a farlo. In un vero outlet delle lussurie sintetiche sulla via Tiburtina, ogni giorno si impacchettano e spediscono in tutta Italia le attrezzature necessarie al risveglio. Sono cosette non sempre facilmente descrivibili, impacchettate come fossero pezzi di ricambio di aspirapolvere, riposte e classificate in scaffali lungo 1000 metri quadrati di magazzino, esattamente come all'IKEA. È un raro caso di decrescita non molto felice che è diventata un business. Le risposte nel budget familiare si assottigliano, si taglia sulle voci ludiche e gioco forza si massimizza quel che si ha in casa. Un paio di manette rivestite di peluche, uno sculacciatore, una tutina a rete, qualche oggettino di rinforzo. Ecco che anche una coppia esaurita torna come nuova. A mettere in atto pensieri porcelli low cost, però, non sono più i maschi resi semi e eunuchi dai tagli del personale, dagli stipendi decurtati, dalla falce fiscale. Ancora una volta sono gli angeli del focolare a inventarsi le risorse. Lo fanno da sempre puntualmente quando gli uomini non ce la fanno a tirare avanti. In passato intere generazioni di massai hanno confezionato maglioni a cottimo, venduto biscotti, si sono inventate badanti a figli altrui. Ora hanno scoperto il mercatino domestico dell'autarchia sessuale. Le più brave riescono a portare a casa dai 500 agli 800 al mese, lavorando un paio di pomeriggi a settimana. In fondo è tutto relax, si prende un tè, si scherza sulla mercanzia in morbido e realistico lattice e si fa anche un'opera buona, salvando tante amiche dal naufragio sensuale. L'austera ragazza, non più ragazzina, ma ragazza, perché oggi una donna era dai 30 ai 60, ancora può dirsi ragazza, in un tailleur elegantissimo, probabilmente sta andando a un colloquio di lavoro, o va a un appuntamento di lavoro, o va dove diavolo le pare, mi guardava con grande circospezione, anzi con uno sguardo di velato rimprovero, quando guardavo nel mio tablet la rassegna gli oggetti del piacere femminile che si scambiano le signore. Ero molto divertito. Lei ha una visione invece molto antica, romantica, appassionata ma allo stesso tempo disincantata di quello che dovrebbe essere il rapporto di una donna con un uomo. Dovrebbe, perché per lei così ancora non è mai stato. Dunque, io ho avuto una storia sia con Lippi scalcagnato che vive nel caos, che pulisce la casa una volta l'anno se va bene, che ha addosso spesso e volentieri un odore, diciamo, di sudore, che con il miliardario che mi portava nel ristorante di lusso all'ultimo grido e aveva una meravigliosa casa, eccetera. Io posso dire però che sia in questo caso che nell'altro, che interessava a me, era sicuramente come era fatto lui dentro, perché quello che sapeva dare, come sapeva darlo, ciò che io volevo, e io volevo in fondo alla fine sempre sguardo, tenerezza, profumo, un'intelligenza nelle battute, la favela sciolta, il look e l'arredamento della sua casa che riflettono la sua personalità, oppure l'inquietudine nello sguardo, i contrasti che possono essere appunto il fatto di essere un po' stronzo, tra virgolette, ma allo stesso tempo sofferente, dolce, eccetera. Non ha assolutamente importanza per me la ricchezza, la professione, eccetera. Non ho mai lasciato pagare il miliardario, ho voluto sempre fare a mezzi pure col miliardario. Guadagnavamo tutte e due allo stesso modo e, dato che non mi convinceva nel modo in cui mi faceva sentire, non mi convinceva nel suo modo di essere, ovviamente io mettevo i paletti, non lo facevo pagare, perché far pagare qualcuno è come dar modo all'altro di entrare nella sua vita come una moglie, perché a chi paghi tutto in fondo? Perché magari c'è la comunione dei beni, alla moglie, cioè assoluta scioltezza, e quel che sarà sarà dopo, perché se si sta bene queste domande non te le poni, non stai con l'ansia lì al ristorante a pensare a tutte le formule sociali, non ci pensi, se stai bene stai bene. Oh, non l'avrei mai detto, oggi giornata di grandi rincontri. Chi ti ritrovo? La ragazza con la chitarra. La ragazza con la chitarra che, con grande fare sospetto, è ancora in uno scompartimento con il ragazzo pugliese, che anche lui aveva la chitarra. Ma quindi si frequentano? Ma quindi sono stato ruffiano e pronubo di una storia d'amore? Li guardo, ma ancora sono su piani molto diversi. Lei romantica, ha una visione molto idealistica del rapporto amoroso. Lui, che è un grande paraculo, furbacchione, le fa credere che così sia. Ma in realtà ritengo che sia necessario che lei istruisca su quello che è l'annoso, terribile e frequentato uso che l'uomo ha di effettuare la tecnica della ripresina. Allora adesso vi spiegherò, cari ragazzi, nella vostra, non credo del ragazzo con la chitarra, una ragazza con la chitarra, la filosofia della ripresina. Ti prego. No, te lo devo dire. Spiegamela, ti prego. La ripresina è un meccanismo tipicamente maschile. Certo. L'uomo funziona così. La traccia, il ricordo che rimane di una storia passata. Esiste sì il ricordo, ma è sintetizzato in un numero di telefono, una casella email, un contatto su Facebook, se non è stato cancellato con orrore e con disprezzo. L'uomo nella sua vita ha dei momenti di alta e dei momenti di bassa. Nel momento di bassa, cioè che ti accanna una donna, ti finisce un fidanzamento, ti manda a quel paese una moglie, non hai niente sotto le mani, sei in un periodo in cui c'hai tutti lontano, ti senti depresso, inizia la fase della ripresina. L'uomo comincia a fare il giro delle telefonate, cominciando dalla più vicina fino alla più lontana, e richiama tutte le donne in cui ha avuto un minimo di frequentazione. Quindi se l'uomo ti richiama ogni sei mesi, è la ripresina semestrale, capito? Se è la semestrale, potrebbe essere la trimestrale. È solo per quello che ti chiama. Ultima domanda. E se fosse così, e magari invece la storia non è stata proprio appiena, vissuta appieno, no? Quando lui ti chiama, allora cosa, a questo punto diceva: non mi tolgo lo sfizio pure io e vediamo da sé, oppure ma vai a quel paese. Non so, dipende da te. Per lui è la limousina. Se tu dici va quel paese, really nice to meet you. I just met the seven fathers, God was just my type. Love the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. No and bitter I ate. I heard that Cali never rings and knew you had to wait. I never been to Brooklyn and I like to see what's good. Senti, troviamo un'altra canzone, abbiamo tanto tempo ormai. Lui è scelto. Negli anni 2015 tutto accade nei primi 30 secondi, dai 15 ai 150 anni. Non so quando possa accadere che tutto non è accaduto. Se parli di rapporti multipli con animali da cortile può essere, ma nel normale scambio amoroso fra uomo e donna avviene tutto quasi sempre, no? No. C'è ancora una fase romantica, la prova d'amore, gli do un bacio. Impantanarsi in una storia non è mai positivo, come esperienza. Ma uno ci trova dentro fino ai piedi, come fa a uscire? Questa è una cosa che nessuna generazione darà una risposta. Certo, impantanarsi è sbagliatissimo. Poi magari ti rimane, sai, l'ideale di quella persona, dici... Magari sei una di quelle chiamate, di quelle ripresine, io avessi detto, ma sì, magari, chissà, potrebbe essere. Tu hai sempre detto di no alle ripresine. No, faccio anche in modo e modo di fare ripresina, cioè ci sta proprio quello che ti chiama, ancora prima che rispondi c'è scritto ripresina, tra un po'. No, ma quello... uno, guarda, allora, il vero paraculo non fa mai capire che è una ripresina. Dice, guarda, mi è capitato tra le dita improvvisamente, quel fiore... che tenevo serbato in mezzo a quel libro di poesie che tu mi desti quel giorno. Tu mai non gli hai mai dato un fiore, ma ti illudi che sei tu. E ho pensato a te, il suo profumo mi ha riportato il tuo profumo. Cosa darei per sentire la tua voce? Tu dopo 30 nanosecondi sei già sotto casa tua. Con la ripresina fa, oh, che fai? C'è mezz'ora libera? Ci vediamo? Cipiamo qualcosa? Che poi prendere è senso unico, capito? Ecco che quella è una ripresina. Beh, però tutte e due sono ripresine, ma uno è astuto, è un maestro della ripresina. It's really nice to meet you. I just met the seven fathers, God was just my type. Love the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. No end be to what I ate. I heard that Cali never rings and knew you had to wait. Il treno va. Ed ecco l'audiolettera. Ed ecco il momento in cui un cuoricino palpitante, sofferente d'amore, pronto ad essere trafitto dal dardo malandrino, mi si offre sperando che io possa dare il nettare sanatore delle sue ferite amorose. Così sarà anche per questa ascoltatrice che con qualche problemino di salute, però comunque accettabile, può condurre una vita quasi normale. Caro Gianluca, non riesco a capire perché a forza di ascoltarti mi trovo quasi costretta a scriverti e sottoporti il mio caso. Forse tutte noi disperate ci illudiamo che affidare a un treno i nostri problemi possa servire a mandarli lontano. Il mio problema si chiama Alfonso e non è un nome di fantasia. Spero che ascolti e si vergogni. Sono divorziata da 10 anni. L'ex marito ancora si fa vivo con delle scuse, ma soltanto per continuare a mantenere il controllo postumo sulla mia vita sentimentale. In effetti, mi frequento con un uomo da almeno 3 anni, Alfonso. E lui, l'avrai capito, è anche il mio commercialista. E dopo lo scoccare della prima scintilla sul mio modello unico, continua a gestire le mie cose. Nulla di che, piccola rendita di famiglia e il frutto del mio lavoro, un negozio di abbigliamento per taglie forti. Alfonso è un cinquantenne, single per scelta, dice lui. Con me non è particolarmente focoso, ma i nostri incontri settimanali si svolgono sempre secondo lo stesso copione. ristorantino di pesce, che io odio ma sopporto, al caffè lui prende sempre una pillolina gialla senza farsi vedere. Ma me ne sono accorta perché una volta era caduto il blister e ho visto che era Cialis. Poteva dirmelo, che male c'era. Anch'io prendo il carbon fossile per l'aerofagia ogni volta che esco con lui, per evitare imbarazzanti effetti per il problema di gonfiore per cui soffro. Ma mica me ne vergogno. Sono le cose della vita. Evidentemente lui del suo problema di gonfiore è più restio a parlarne. Pazienza, mi accontento. E alla fine mi bastava sentirmi amata, con o senza supporto chimico. Poco importa. Lo so, è brutto quando si trovano a confronto una donna con l'aerofagia e un uomo con la disfunzione erettile. Entrambi devono munirsi di pillole per ovviare ai loro gonfiori, presunti, eccessivi, carenti. Ma, naturalmente, l'amore tutto vince. E per lei la storia può anche continuare, pure con un supporto farmacologico. Avrai capito che sono una molto spontanea, sincera e solare. Quindi per natura tendo a pensare che anche le persone che frequento e che dicono di volermi bene lo siano. Tutto poteva andare avanti anche per sempre per quello che mi riguardava, ma purtroppo è accaduto un episodio che mi ha fatto crollare il mondo addosso. Mi è arrivato proprio ieri un messaggio privato su Facebook da parte di una donna che conosco superficialmente. Qualche volta è venuta in negozio. Ci siamo incrociate in occasione di un paio di matrimoni, compleanni, festicciole e di amici comuni. Ci saremmo scambiate qualche chiacchiera. Siamo amiche di Facebook per quelle catene di segnalazioni automatiche che alla fine ti fanno diventare amiche persone che conosci appena. Molto gentile, devo dire, molto rispettosa, per nulla aggressiva, anche se piuttosto fredda. In poche battute mi avverte che Alfonso se la fa con lei. Nulla di sentimentale, mi precisa, nulla di serio, solo sesso. Persino con passeggera triangolazione assieme a una sua amica, che per fortuna non conosco. Mi avvertiva, non ho capito se per sorellanza femminile, per fare un dispetto a lui, per pura crudeltà, o così perché magari si era pentita. Ancora non ci siamo visti con Alfonso e ancora non gli ho detto nulla. Domenica, dopo averti ascoltato, andrò la sera con lui a mangiare la solita spigola. Che faccio? Lo lascio? Sto zitta? Faccio una scenata? Sono impietrita dalla sorpresa. Soprattutto mi chiedo se anche con le altre Alfonso si impasticca come faceva con me. Una risposta veloce, ti prego. Che devo dirti, cara mia? Questa sera sarete davanti la spigolina che tu odi e che lui ti offre per distrarti, mentre con fare disincantato, differente, distraendoti con una barzelletta, si prende la pillolina per fare il suo dovere. Tu la tua pillolina l'avrai presa, perché si prende prima dei pasti, quindi ve ne andrete altrettanto felicemente verso il vostro consueto talam amoroso. Tu parzialmente sgonfiata, lui parzialmente gonfiato, e vi amerete. Tu a lui non dirai nulla, sarà meglio che tu non lo dica, anche perché lui sa che ti è stato detto. Forse non l'hai capito, ingenua ragazza che passa le sue giornate dietro un banco che vende guaine contenitive per signore oversize. In realtà è tutto un complotto per trascinarti. Sì, perché ormai, appagato con la sua amante dei rapporti triangolari, vogliono inaugurare il quadrilatero e quindi pensano a te. E quindi non ti basterebbe una pillolina per entrare in quel gioco perverso, e a lui non basterà senz'altro l'intera scatola delle sue pillole gialle per poterlo portare avanti ancora per molto tempo. Confida, prima o poi nella sua vita ci sarai solo te e una spigola.